ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Allora, c'è forse un problema con l'audio. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, scusate, c'era un piccolo problema con l'audio. Buongiorno, eccoci a questa nuova puntata di Corrispondenza Operaia, lunedì 30 marzo, ore 12.07. Iniziamo allora subito la puntata entrando nel vivo della trasmissione. Quest'oggi abbiamo due corrispondenze. La prima è appunto una corrispondenza con un compagno e lavoratore delle ferrovie, Bruno Bellomonte. La sua vicenda comunque in questi giorni è passata, diciamo, molto nelle testate di movimento, e comunque si è parlato molto di lui. Bruno è stato vittima comunque di un grosso accanimento, prima giudiziario e poi aziendale, dei confronti appunto di questo ferroviere. L'abbiamo in linea, Bruno, ci senti? Sì, ti sento. Allora, buongiorno a te. Magari proprio per far capire un po' agli ascoltatori e alle ascoltatrici, sì, di cosa stiamo parlando, ci puoi raccontare un po' quando è iniziata, sì, la tua vicenda? Perché sappiamo che comunque, certo, sono circa una decina di anni che va avanti. Certo, certo. Cercherò anche di essere abbastanza sintetico, perché la mia storia inizia dal 2006. Praticamente in quell'anno, esattamente l'11 luglio del 2006, fui arrestato per la prima volta con i miei compagni di un'organizzazione della sinistra indipendentista sarda che si chiama Amanca Pro Sindipendenza, vuol dire a sinistra per l'indipendenza. fummo arrestati in 10, fu praticamente arrestato tutto il direttivo politico, tutti i responsabili politici dell'organizzazione. Per fortuna io 19 giorni dopo ebbi la possibilità di dimostrare che le accuse che mi venivano rivolte non potevano essere supportate da nessuna prova, in quanto in quel periodo io mi trovavo in Tunisia, per cui il Tribunale della Libertà 19 giorni mi fece uscire, furono costretti a farmi uscire. Nel frattempo la ferrovia mi aveva sospeso. Io uscì dopo 19 giorni, mentre i miei compagni sono stati quasi un anno dentro, senza prove, senza niente, senza processo, senza nulla. Un anno dopo sono uscito. Nel frattempo io sono stato immediatamente sospeso dalle ferrovie, le quali però dopo i 19 giorni mi fecero, cioè sospeso per 60 giorni praticamente. Fui sospeso per 60 giorni, ma alla scadenza dei 60 giorni le ferrovie, secondo anche il contratto e le leggi comuni, furono costrette a riassumermi e io ho ripreso regolarmente a lavorare, diciamo. Chiaramente ho continuato a fare sindacato, io facevo parte dell'Unione Capistazione, io sono un capostazione, è un sindacato di base, ho continuato a fare sindacato, ho continuato a fare politica indipendentista, giro ancora attualmente tutta la Sardegna per fare politica. Solo che ho avuto un piccolo altro contrattempo nel 2009, nel giugno del 2009 a Roma vengo arrestato con altri quattro miei amici e compagni, praticamente sempre per banda armata, terrorismo, roba varia. Praticamente ho fatto 29 mesi e mezzo di villeggiatura, io la chiamo. Purtroppo in occasione anche di questi arresti, purtroppo uno di questi compagni con cui dividevo le celle, uno di questi compagni che io ricordo sempre ed è giusto ricordarlo, Gigi Fallico, è morto in carcere. Lo ricordo perché è giusto che anche i compagni da morte siano sempre ricordati. Certo. Un comunista va sempre ricordato. Comunque, cosa fa la ferrovia mentre io sono arrestato? 8 mesi dopo il mio arresto mi licenzia, premetto che non è previsto dal regolamento, non è previsto dal contratto, mi licenzia con una sola e unica causa, la giustificazione che loro hanno emesso era perché il signor Bellomonte Bruno, il capo stazione Bellomonte Bruno, non poteva andare a lavorare, cioè non si poteva presentare in servizio. Quindi io vengo licenziato, sapendo loro sapevano benissimo che io ero agli arresti, tra l'altro io gliel'avevo anche comunicato, vanno anche comunicate queste cose, però vengo sospeso perché non potevo presenziare il servizio. Comunque licenziato completamente. Dopo 29 mesi e mezzo esco dalla villeggiatura e faccio subito ricorso per essere riassunto in ferrovia. Faccio un 700, si chiama 700 in termini giuridici sindacali. Faccio un 700 che è un provvedimento d'urgenza per essere riassunto e vinco questo ricorso, vinco la causa e vengo riassunto regolarmente in servizio. Ho fatto quasi 2 anni e mezzo di servizio, solo che la cosiddetta operazione Arcadia del 2006, quella famosa di luglio 2006, non si era mai sopita, è andata avanti perché il pubblico ministero di Cagliari, che è una fanfrudice, uno che chiaramente ha tutto interesse di mettersi in mostra, ha proseguito nelle sue ricerche, nelle sue indagini, e guarda caso, a causa di un era successo nel frattempo che a Nuoro, che c'era la Digosi Nuoro che praticamente è stata quella che ci ha portato agli arresti, ha trovato dentro i suoi uffici un volantino che guarda caso questi signori della Digos facevano risalire a Bellomonte Bruno. Praticamente questo PM, attraverso questa scoperta, un volantino che avrebbe dovuto trovare a casa mia e dove che non è stato mai trovato, tra l'altro, l'hanno trovato negli uffici Digos, e secondo appunto i signori questo volantino apparteneva a me, addirittura dicevano che era un volantino originale. È stato provato che poi il volantino non era un originale, vabbè, queste sono le perizie che ho fatto in seguito. Ad ogni modo, per questo motivo il PM nel 2014, cioè l'anno scorso, a giugno del 2014, mi rinvia a giudizio e quindi sono nuovamente imputato e imputato in questo nuovo processo, in questo processo che si chiama appunto Arcadia, che è partito nel 2006, cioè è partito, gli arresti sono del 2006, le indagini sono iniziate nel 2002. Faccio presente che siamo nel 2015, cioè io sono imputato in un processo iniziato nel 2002, le indagini. Cosa ha fatto comunque la Ferrovia? Appena sono stato rinviato a giudizio, 6 giorni dopo il rinvio a giudizio vengo nuovamente sospeso e come il regolamento vuole mi sospende per 60 giorni. Così come il regolamento vorrebbe, io sarei dovuto rientrare dopo 60 giorni. Invece cosa fa la Ferrovia? Prende e mi sospende a tempo indeterminato. Quindi io praticamente dal mese di giugno dell'anno scorso io sono sospeso dalle Ferrovie, senza stipendio, senza possibilità di prendere contributi pensionistici, non posso fare nessuna richiesta neanche a comuni per sussidio. Praticamente sono in un limbo perché non sono né licenziato né assunto, sono sospeso a tempo indeterminato. In teoria la Ferrovia, perché poi giustamente ho fatto subito causa, la Ferrovia sta dicendo che finché questo processo non finirà e finché praticamente non verranno a conoscenza del perché io sono imputato, io rimarrò sospeso, quindi praticamente rimarrò senza stipendi e senza niente. E vi aggiungo che chiaramente ho fatto già 2 cause, le ho perse tutte e due, sto andando avanti, ho fatto 2 cause come articolo 700 che è sempre un provvedimento d'urgenza, adesso ho iniziato una causa di merito, ma non è finita qua. Io ho iniziato la causa di merito, la prossima causa di merito a Roma, al Tribunale di Roma, ce l'avrò il 28 maggio del 2015. Nel frattempo, il 24 marzo, quindi la settimana scorsa del 2015, la Ferrovia ha tentato, oltre a sospendermi, ha fatto ricorso al primo mio appello quando ero licenziato, ha fatto ricorso per licenziarmi. Quindi il 24 marzo del 2015, la settimana scorsa, la Ferrovia ha ripreso la causa contro di me per rilicenziarmi, cioè mandarmi di nuovo fuori, sbattermi fuori. La causa è stata fatta e il giudice, tra l'altro l'avvocato mio, si è presentato dicendo: guardate che Bellomonte è stato assolto in primo, secondo e terzo grado, non vedo che cosa cerchiate. Cosa che altrettanto i giudici hanno capito e compreso. Dovevano emettere la sentenza all'indomani della causa, invece il giudice, credo anche, non lo so, penso forse anche in maniera abbastanza corretta, hanno pensato no, fino al 15 settembre noi non ci pronunceremo. Quindi comunque sia, io fino al 15 settembre non risulto licenziato, però risulto sospeso. Tra l'altro cosa fanno le Ferrovie? Stanno adducendo una scusa inutile, stanno dicendo che non avendo notizie su di me, loro stanno tentando attraverso la procura di Cagliari di conoscere il perché io sono imputato. Continuano a sostenere che la procura non procura le carte a loro per il semplice fatto che i dati sono prescritti, sono secretati. Questa è un'enorme bugia, perché i dati non possono essere secretati. Una volta iniziato il processo, perché finalmente il processo è iniziato quest'anno, siamo solo alle fasi iniziali, se dovesse andare avanti così finirà fra altri 6, 7, 8 anni, il rischio che vada anche in prescrizione, però non possono essere secretati questi dati, in quanto i dati vengono pubblicamente consegnati alla procura, legalmente consegnati alla procura. Il problema di fatto è che probabilmente la procura, giustamente credo anche, probabilmente non li dà alle Ferrovie perché non è nelle condizioni di doverli ricevere. Cioè, un avvocato penalista che mi difende, un difensore, ha tutti i diritti di conoscere gli atti, probabilmente la Ferrovia no. La cosa che invece la Ferrovia continua a dire è che la procura non dà gli atti a loro semplicemente perché sono segretati, e questa è un'enorme bugia. Tra l'altro, enorme bugia che dovrebbero conoscere anche i giudici del lavoro, i quali invece, anziché appoggiare i lavoratori, stanno appoggiando totalmente le ferrovie. Perché nelle due cause che io ho perso si vede in maniera chiarissima, evidentissima, che oramai nei tribunali i giudici oramai si sono schierati totalmente a difendere le aziende, totalmente a difendere le società, i padroni, in poche parole. Poi chiaramente sapete benissimo che Renzi ha fatto il resto, il Jobs Act è l'emanazione appunto di una abolizione non soltanto dell'articolo 18, ma il Jobs Act è semplicemente l'abolizione della legge 300, lo statuto dei lavoratori, praticamente stanno dando carta libera ai datori di lavoro di licenziare come e quando vogliono. Io sono in questa fase, per fortuna, dico per fortuna, non dovrei rientrare nel Jobs Act, però sono nella fase in cui sono nel limbo, non sono né licenziato e neanche non posso prendere neanche la pensione approvata adesso. Secondo la legge Fornero dovrei andare in pensione a 66 anni, ne ho 65 e dovrò aspettare senza lavorare, senza prendere contributi, fino a 66 anni. Dopo 66 anni andrò finalmente, grazie alla Fornero, prima di morire potrò anche andare in pensione anch'io. La situazione più o meno è questa, è una situazione vergognosa. Gli stessi avvocati, ho fatto leggere le cause a dei giudici, a dei magistrati, a diversi avvocati sia del lavoro, civilisti e non, e tutti mi hanno detto che è un obbrobrio quello che sta avvenendo, è una vergogna, è veramente un'offesa al diritto, anche se io sulla giustizia avrei molto da dire, non è che ci creda tanto, visto quello che sto subendo e continuerò a subire. Voi pensate soltanto una cosa, sono sotto un processo iniziato nel 2006, cioè gli arresti sono iniziati nel 2006, di un processo, di un'indagine iniziata nel 2002, siamo nel 2015, sono passati 13 anni, siamo solo ancora alle prime fasi, abbiamo fatto solo 3 udienze alle fasi iniziali, ancora il PM non ha prodotto in termini definitivi tutto il carteggio, rischio di stare ancora altri 8 anni, quindi 23 anni, un processo inutile contro gli indipendentisti, che è una cosa vergognosa solo a leggerlo, e chiaramente chi ne subisce le conseguenze sono i lavoratori che purtroppo per questo clima repressivo subiscono chiaramente quelle che sono il volere e volare dei padroni. Scusi. Da poco abbiamo fatto a Firenze, credo il 20, mi ricordo, 20 e 21 adesso non mi ricordo, abbiamo fatto a Firenze un dibattito contro la repressione nei luoghi di lavoro, c'erano diversi compagni, ferrovieri e non, postini e altri, che chiaramente hanno, anche loro stanno subendo tutte le angherie e tutti i soprusi, non soltanto dei datori di lavoro, dei padroni, del vapore e dell'industria, cioè, ma anche le angherie, credo, i soprusi anche di una giustizia del lavoro che solo e soltanto condizionata oramai dagli interessi che economici. Sì, infatti a questo penso proposito che abbia detto tutto, anche se l'ho dovuto dire così velocemente, in maniera molto molto stretta, sintetica, però sono praticamente dal 2006 a oggi in una bolgia di cause, praticamente fino ad oggi avrò fatto 7-8 cause contro le ferrovie e ne sto facendo altre 4-5 penali per quanto riguarda la mia situazione. Prendetevi conto come si può sentire un cittadino comune. Io sono stato fortunato di essere un ferroviere, per fortuna molti ferrovieri hanno sottoscritto, sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista di solidarietà, diverse posizioni a mio favore, quindi io sono per fortuna, diciamo, vengo aiutato anche economicamente. Volevo aggiungere una cosa, pensate una cosa, che sia nella prima che nella seconda causa contro le ferrovie, quando ho fatto il ricorso contro la sospensione, entrambi i giudici, tutte e due donne, guarda caso tra l'altro, entrambi i giudici hanno sostenuto che non è vero che io posso rimanere sospeso, in quanto comunque ho una moglie, e ho una moglie che guadagna 1.000 euro al mese, perché faceva la postina, adesso è in pensione, e guadagnerà anche meno di 1.000 euro al mese, e quindi c'è mia moglie che è comunque la mia compagna che mi può sostenere. Cioè, rendetevi conto, uno fa una causa per chiedere un diritto, che è il diritto al lavoro, cioè il diritto a ritornare a lavorare secondo anche un principio sano di, si risponde anche di un principio di dignità. Cosa fa un giudice? E il giudice, anziché darti, anziché capire questa problematica, ti risponde che comunque tutto sommato puoi anche startene a casa perché c'hai una moglie che ti dà da mangiare. Cioè siamo a volga, cioè non al ridicolo, è una volgarità del diritto, è proprio una, uno schiacciamento del diritto, è un obbrobrio, come ha detto il mio avvocato, abbiamo, è un obbrobrio oramai del diritto, cioè è una offesa nei confronti dei cittadini e in particolare contro i lavoratori. Beh sì, diciamo, mi senti? Tutti i mi senti? Sì, okay. Ti sento malissimo, ma ti sento. E diciamo, ci hai ricostruito alla perfezione tutti i fatti e comunque è molto chiara la situazione. E, voglio dire, è un ennesimo. Non sono solo, guarda, non sono solo in Italia, solo in ferrovia saremo. Attualmente ci sono almeno 200 ferrovieri con accuse, con lettere di licenziamento. In tutto il territorio italiano ci saranno circa 200 ferrovieri che rischiano sospensione o licenziamenti, perché basta che adesso tu poco poco ti rifiuti di fare alcune cose, non vieni più richiamato. Prima c'era il richiamo scritto e un'eventuale punizione, no, adesso secondo la legge, la scuola Moretti, il signor Moretti che adesso si trova alla Finmeccanica con più soldi di prima, che è tra l'altro inquisito per la strage di Viareggio, seguendo quella scuola Moretti, oggi chiunque si dica no a all'azienda ferrovia viene immediatamente o richiamato oppure sospeso. Immediatamente viene, addirittura ci sono stati licenziamenti diretti. Quindi siamo in un ambiente, siamo in una situazione altamente repressiva, altamente preoccupante, perché la gente, a questo, molti lavoratori purtroppo con la paura sottostanno e si sottomettono al padrone. Sottostanno e sottomettono al padrone, e purtroppo quello che ne va di. Quello che poi alla fine subisce l'Angheria è tutto il movimento operaio, non è uno. Noi dobbiamo invece continuare, anche se siamo singoli, continuare a combattere, dobbiamo continuare a resistere e a combattere anche dentro le aule giudiziarie, che non sono, non dicono tutto, le aule giudiziarie sono soltanto un tramite, però dobbiamo continuare a resistere e a combattere in tutti i luoghi di lavoro, ferrovia o meno, perché solo in questo modo forse potremo cambiare questa situazione. Sì, appunto, la tua vicenda è appunto simile a quella di tanti e tante altre lavoratori e lavoratrici in Italia, e come ben ricostruito tu, voglio dire, gli ultimi episodi, cioè voglio dire, le direzioni comunque di questi ultimi governi vanno proprio in questo senso, comunque eliminare il conflitto dei posti di lavoro, espellere comunque, diciamo, tutti gli individui e i compagni e comunque tutti coloro che sono maggiormente attivi nei posti di lavoro. E poi effettivamente, come la tua vicenda racconta bene, magistratura e padroni fanno fronte unico, sì, comunque, sì, per abbattere, diciamo, le condizioni. Sì, e... ma è oramai diventata una forma mentis unita, padroni e magistratura, o meglio una certa fetta di magistratura, chiaramente. Sicuramente prima, 10 anni fa non c'era queste, cioè praticamente la forbice dei rapporti di forza si è allargata. I rapporti di forza non ci sono più quelli di 10 anni fa, in tutti i termini, sia nei luoghi di lavoro che anche nella magistratura. Oramai la magistratura sta facendo, purtroppo è tendenzialmente portata a seguire determinate dinamiche, purtroppo questa è la realtà. Renzi ha fatto scuola, sta andando, sta ancora distruggendo, man mano che continua a governare questo qui farà solo danno, mi pare evidente. Ma no, come lui tanti altri in Europa, oramai la scuola di pensiero è quella che chi lavora deve solo subire, punto e basta, non deve rompere più i coglioni, deve solo subire zitto e muto, altrimenti viene preso a calci culo e licenziato. Tra l'altro è previsto anche nel Jobs Act, se lo leggete bene, dopo 3 anni qualsiasi datore di lavoro, è inutile che loro parlano di continuità e di assunzione a tempo indeterminato, dopo 3 anni ti pigliano, ti danno anche prima, ti danno un calci in culo, addirittura c'è il licenziamento collettivo o in qualsiasi maniera, con un problema, con una scusa, anche con la scusa dell'economia, prendono, non c'è più, si fa troppo licenziamento economico. Appunto, la strategia, diciamo, in larga scala per eliminare il conflitto, sì, ma ancora sì, prima possiamo ricordare pure il testo unico, la rappresentanza italiana, europea, mondiale, chiaramente. Certo. Io più o meno ho cercato di darti questa valutazione, chiaramente non è facile dal telefono e soprattutto in un tempo così ristretto. No, ma sei stato chiarissimo. Dopo Firenze abbiamo intenzione di girare un pochettino. A Napoli già è stato fatto un'altra, forse a Firenze il 26 aprile se ne farà un altro. Dibattiti e incontri in Sardegna, probabilmente stiamo organizzando proprio dibattiti contro quella che è la repressione nei luoghi di lavoro. Speriamo di riuscirci. Poi è chiaro che il tempo ce ne abbiamo poco e soprattutto stiamo sempre correndo a destra e a manca per dimostrare il nostro concetto di lavoro e di democrazia all'interno dei posti di lavoro, di rappresentatività via di seguito, però è sempre più difficile, sempre più pesante. Si sente veramente nei posti di lavoro, dovunque tu vada, si sente molta pesantezza, l'aria è pesante e molta gente purtroppo si nasconde anche dietro la paura. Beh, lo vediamo tutti i giorni dai microfoni di questa trasmissione. Tutto, spero di averti dato una mano, spero di aver dato almeno un ragguaglio di come di quello che sto vivendo. Certo, guarda, la situazione è chiarissima, anzi abbiamo appunto raccolto l'appello che gira sul web e abbiamo cercato di dare visibilità alla tua situazione comunque da questi microfoni, magari raccogliamo anche questo appello implicito che ci hai mandato e cercheremo di farci carico appunto di organizzare un'iniziativa anche qui a Roma magari in cui confrontarci e discutere i temi della repressione nei posti di lavoro. E un'ultima cosa, magari abbiamo visto comunque dai vari articoli che i compagni di lavoro si sono organizzati e hanno fatto una cassa di resistenza appunto per supportare questa vertenza. Cassa di resistenza, se noi andiamo a vedere queste casse di resistenza, addirittura se uno legge alcuni documenti della prima internazionale vediamo che già allora nel 1875 diversi lavoratori, alcune categorie dei lavoratori già l'avevano inventata, costruita, è studiata, è una cassa di resistenza nel mondo del lavoro, nel mondo delle categorie, ma quello che stavamo dicendo l'altro giorno appunto a Firenze, e speriamo che non rimanga soltanto finalizzata e racchiusa solo nell'ambiente dei ferrovieri e che si allarghi il più possibile in tutti i luoghi di lavoro. Una cassa di resistenza ci vuole, perché a prescindere che tu devi mangiare, devi continuare a mangiare e a vivere, a prescindere, ma poi ti devi difendere. Oggi difendersi dai padroni costa. Se vai in tribunale costa, perché non è che fai una causa, ne puoi fare una, due, tre, quattro, dipende da come. E se non hai queste possibilità, un lavoratore che purtroppo non ha queste condizioni soccombe, non può andare avanti. Cioè io per esempio ho avuto la fortuna di avere, oltre il mio piccolo gruzzoletto messo da parte, ho avuto la fortuna di avere una grandissima, enorme solidarietà da parte del mondo delle ferrovie e non solo, che chiaramente mi sta dando l'occasione di difendermi e di mangiare, per fortuna, a cui devo dare anche adito che merito che mi stanno veramente sostenendo. Ringrazio anche il CPA di Firenze, l'altro giorno il 20 ero a Firenze, al CPA di Firenze abbiamo fatto una cena insieme ai compagni del CPA di Firenze che con appunto seguendo quella che è la logica della solidarietà di classe, anche loro hanno contribuito con la cena a darmi un contributo economico, infatti io continuo a ringraziarli. Io li ringrazio in quanto lavoratore e in quanto semplice cittadino, perché adesso un cittadino che rischia di essere licenziato da un momento all'altro nel posto di lavoro, se non riesce quantomeno a difendersi nelle aule di tribunale, spacciato. Beh, anche noi qui crediamo che la solidarietà bisogna costituire queste case di solidarietà in tutti i posti di lavoro, bisogna intanto incominciare ad unirsi. L'unità è indispensabile, l'unità nel mondo del lavoro è indispensabile, certo con tante divisioni, con tante discrezie alle volte, però oramai il nemico cioè era definibile anche l'anno prima, però il nemico oggi oramai ha deciso di massacrarci. A questo punto l'unica alternativa è difendersi, per difendersi deve avere tutti gli strumenti, anche quelli economici, per cui invito in tutti gli ambienti del lavoro, nell'industria, dappertutto, se è possibile costituire casse di solidarietà per la difesa dei compagni, dei lavoratori. Beh, ti dicevo, la solidarietà anche noi da qui, da questi microfoni, crediamo che sia proprio uno strumento di lotta in tutte le forme secondo le possibilità di ognuno, naturalmente. Riuscire a vincere una battaglia anche in tribunale, dico anche, ma non solo in tribunale, riuscire a vincere la battaglia anche in tribunale è importante per la lotta dei lavoratori, secondo me è importante. Purtroppo devo dire che dovremmo vincere sul campo le battaglie, ma purtroppo oggi siamo in una condizione di resistenza totale o quasi, le alternative sono poche. Vorremmo non andarci nel tribunale, io avrei preferito non andarci, ma non c'ho alternativa, e quindi se vogliamo andare nel tribunale, ed è importante vincere le battaglie, poi si possono anche perdere, però bisogna farle, e credo che questo è indispensabile. Benissimo, condividiamo allora le tue parole e invitiamo ancora tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a esprimere appunto solidarietà attiva. Sul web comunque si trovano tutte le indicazioni, il conto corrente in Liban per fare un versamento, e ti ripeto, cercheremo anche noi da questi microfoni di organizzare un'iniziativa in sostegno e comunque della tua condizione, magari ti inviteremo qui a Roma. Non appena sarà possibile. La possibilità sarà sempre a vostra disposizione, non c'è problema. Va benissimo, allora ti ringraziamo, okay. Bruno, e ti auguriamo una buona giornata, ci risentiremo presto. Naturalmente, okay. Nel caso in cui ci fossero degli aggiornamenti, i microfoni di questa radio sono sempre aperti per aggiornamenti. Ciao, grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Saluti comunisti, ciao. Salve. Guns and ammunition. Sì, e torniamo in onda dai microfoni di Radio Onda Rossa con corrispondenze operaie. Allora, la seconda corrispondenza di questa mattinata è una corrispondenza che appunto parla di nuovo e torna a parlare del mondo della logistica. In particolare vogliamo parlare della giornata del 26 marzo scorso, di giovedì scorso, giornata che ha visto comunque due importanti presidi con blocchi davanti ai cancelli, uno alla Mirror e l'altro a Milano, nei magazzini di, non ricordo il nome, però comunque oggi abbiamo in linea un lavoratore della Mirror con il quale comunque potremo un attimo ricostruire questa giornata di lotta. Ci senti? Sì. Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno. Come dicevo, puoi raccontarci magari cosa è successo il 26 e i motivi che vi hanno spinto a scioperare, comunque a scendere davanti ai magazzini? È successo che quando abbiamo presentato tutte le nostre pratiche al giudice qua a Ferrara, solo che quelle pratiche lì non ha dato né ragione né noi né la fabbrica, neanche il torto, neanche noi, neanche nella fabbrica. Comunque noi continuiamo a fare le nostre cose affinché si risolvano questi problemi, perché noi abbiamo ancora ricevuto il nostro stipendio del mese di agosto fino adesso, non siamo ancora arrivati a nessuna soluzione. C'è l'unica arma che abbiamo noi è il sciopero, continuiamo a scioperare finché si risolva questo problema. Sì, allora ricordiamo nessuna novità. Ricordiamo comunque agli ascoltatori e alle ascoltatrici che alla Mirror 14 facchini sono stati licenziati lo scorso agosto e quindi sono appunto da agosto dell'anno scorso senza stipendio. Sì, siamo ancora licenziati senza stipendio del mese di agosto. Questa giornata di lotta del 26 è una giornata che ha raccolto diciamo davanti ai cancelli tutti i lavoratori con il sostegno comunque di molti compagni e compagne della zona, no? Sì, altre gente delle cooperative le portano la solidarietà con noi. Beh, la solidarietà è un'arma, come dicevamo anche prima. Esatto. Senti, mi senti? Sì. Allora sì, noi da questi microfoni raccontiamo spesso insomma le lotte dei lavoratori della logistica, ormai da diverso tempo, da diversi anni, i facchini in particolare, ma anche i corrieri hanno alzato la testa per diciamo combattere le pesanti forme di sfruttamento a cui erano sottoposte nei loro luoghi di lavoro. Quindi tante volte abbiamo raccontato come i lavoratori della logistica venivano appunto privati di tanta parte del salario, quindi gli venivano rubate le ore, il TFR, si lavorava molte ore, c'erano forme di vera e propria schiavitù dentro i magazzini della logistica, e grazie alla lotta portata avanti dai facchini con l'organizzazione del SICOBAS e della DL GOBAS si è riusciti in tanti magazzini a conquistare importanti miglioramenti, a conquistare accordi nazionali e insomma a migliorare quelle condizioni di pesante sfruttamento. Quindi è importante ricordare anche nel vostro caso, noi immaginiamo che la lotta sia partita appunto per migliorare delle condizioni di pesante sfruttamento che voi eravate sottoposti dentro i magazzini della Mirror. Quindi sicuramente non so il tipo di lavoro che voi svolgete, a cui vi siete ribellati, se ce lo puoi un po' descrivere per ricordare un po' a chi ci ascolta che cosa significa diciamo fare il facchino nei magazzini dei corrieri, più in generale della logistica. E quali sono poi i motivi per cui è iniziata la vostra lotta, che ormai dura da diverse settimane, con picchetti e con presidi là davanti ai magazzini, e a cui appunto i capetti, i caporali, con l'aiuto della polizia stanno provando a reprimere, ma senza diciamo riuscirci grazie alla vostra determinazione. Però appunto la mia domanda era ricordare un po' quali sono poi i motivi che vi hanno fatto scattare l'inizio della lotta, a cui poi la risposta è stato a quanto pare il licenziamento. Insomma, avete iniziato a lottare e l'azienda ha licenziato i lavoratori più attivi di questa lotta, quelli che poi erano iscritti al SICOBAS, giusto? Sì, esatto, così. Quindi non so, voi siete in questo magazzino, quanti lavoratori ci sono, in che di che cosa è composta, diciamo, di che cosa vi occupate il magazzino dell'Amico? Nel magazzino siamo 14 persone, lavoriamo, ci sono le persone che c'erano 4 anni, ci sono le persone che hanno 7 anni, 8 anni, 6 anni, c'è la persona, ognuno c'è vari anni che lavoriamo lì, tutti, perché quanto abbiamo chiesto i nostri diritti per riguardo le stampaggi, quelli che fanno e tutti false, il sfruttamento, il comportamento all'interno del magazzino, quando siamo andati a scrivere da sindacato Fobas, che hanno intervenuto perché hanno visto quelle buste paga tutti falsi, allora loro mi hanno cacciato fuori. Così. Sì, quindi è una questione che è iniziata da subito, all'inizio della lotta. Noi sappiamo che la vostra lotta è dura, che ci sono state anche diverse cariche della polizia durante i picchetti, diverse, diciamo, situazioni di aggressione proprio ai lavoratori che stanno lottando e che stanno lottando, e lo voglio ribadire, per migliorare una condizione di lavoro, quando appunto la controparte, il padrone, invece si arricchisce e fa profitti enormi proprio sfruttando poi i lavoratori che stanno nel luogo di lavoro. Quindi un po' ricordiamo anche questa vostra lotta, che dura da tanto tempo e che è molto dura. Noi immaginiamo, se ne stendo in contatto con vari compagni che seguono la logistica, i compagni del Sicobas, che sicuramente avete la solidarietà di tanti altri lavoratori che lottano in altri magazzini della logistica, e questo è importante, perché appunto sarebbe importante riuscire a vincere alla Miro, sarebbe importante per voi riuscire a vincere per sicuramente ritornare a lavorare e poter guadagnare, perché poi senza, diciamo, stipendio non si mangia, ma è importante anche per radicare un'altra lotta anche in un altro magazzino come quello della Mirror. Sì, io volevo aggiungere una cosa. Questa giornata del 26 in realtà è stata una giornata molto dura alla Mirror. Ricordiamo che comunque la situazione sin dai primi scioperi era molto pesante, vedeva addirittura un fronte unico di capetti del magazzino, molti leghisti e fasci che insieme alla polizia comunque hanno represso ogni giornata di sciopero, ogni picchetto lì davanti ai cancelli. La giornata del 26 si aggiunge comunque a questa lunga lista e in particolare ci sono state diversi momenti di tensione con la polizia. Puoi raccontarci un po' brevemente com'è andata esattamente e quando la polizia ha deciso di intervenire e perché? Intervengono perché questa parte, come sapete tutti, come sappiano tutte le gente, perché qua non vogliono nessuno che fa questi casini, perché tutte le parti hanno messo sia abbiamo bussato tutte le porte dell'istituzione, del sindaco, abbiamo fatto anche un accordo davanti a lui, non è stato rispettato quell'accordo, abbiamo fatto anche 3 o 4 incontri davanti al prefetto, ma niente. Allora l'unica arma che abbiamo noi è sciopero, e continuiamo a scioperare finché si risolva questa situazione. Allora per il giorno il 26 abbiamo organizzato il sciopero lì davanti alle Mirror, però si intervengono sempre polizie, carabinieri, le Diegos che per sgomberare, non vogliono questi scioperi. Sì, e ci sono stati anche un po' di fermi, se non sbaglio, 10 persone fermate, no? 10 lavoratori sono stati. Hanno preso 3 persone denunciate. E noi siamo bloccati i vari tir, allora loro hanno portato quel ragazzo lì per identificare quelle 3 persone, e noi siamo stati lì a bloccare il tir e abbiamo detto che se lasciano quelle 3 ragazze, noi se lasciamo quel tir che vanno via, le portano le merci in varie parti qua in Italia. Allora quando ha lasciato quelle 3 persone, noi abbiamo lasciato quel tir che è andato via. Anche noi abbiamo queste cose qua, diciamo, per non so cosa dirti, comunque noi continuiamo a fare questi sciopero finché si risolvono questi problemi, o rientra tornano queste 14 persone a lavorare all'interno di quel magazzino, o li danno l'esodo a tutte le persone, diciamo tutti quelli 14, e così ognuno va a cercare lavoro altra parte. Solo che adesso non abbiamo già arrivato a nessuna soluzione. Scusami, però per questi tre fermati comunque sono stati dati dei fogli di via? Fuori di via solo in questa città, non è che per Italia, solo per non entrano in questa città. Sì, poi un altro fatto che è successo, diciamo, nella vostra lotta, tanti esponenti della Lega si sono sentiti in diritto di prendere parola difendendo non si sa quale diritto al lavoro, e facendo appunto dichiarazioni razziste e fasciste, come sono, diciamo, nel loro uso e costume, però è importante invece sostenere la vostra lotta anche per contrastare questa deriva fascista e populista che vuole rappresentare un'opposizione in questo paese, che cerca di rappresentare un'opposizione in questo paese, e che invece diciamo viene osteggiata, si cerca di impedire appunto l'avanzata di questi leghisti fascisti in ogni città, con diverse proteste che ci sono state in tutti questi ultimi settimane. Quindi c'è anche Salvini, addirittura ho letto qualche dichiarazione, si è sentito in causa di dover prendere parola anche Salvini. A noi appunto le dichiarazioni di Salvini ci fanno ridere, per noi sappiamo da che parte stare, siamo dalla parte dei lavoratori che decidono di lottare e che decidono di migliorare le proprie condizioni di lavoro. Quindi per noi è stato importante oggi anche dare la voce a questa vostra lotta e mandare tutta la nostra solidarietà qui da Roma. Penso che con questo, insomma, ci possiamo salutare, ti ringraziamo e naturalmente tienici aggiornato del futuro della vostra lotta, e insomma vi sosteniamo. Va bene, grazie mille a voi. Niente, grazie a te. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence, mais depuis des éternités elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue, la mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finirent l'air leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feu d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Torniamo in studio, vabbè, oggi abbiamo finito con la puntata di Corrispondenza Operaie. Prima di chiudere con questa puntata volevo mandare un messaggio di solidarietà a tutti i compagni e le compagne che sono colpiti dalla repressione e in particolar modo ai compagni e le compagne della rete antisfratto di Roma Est, a cui è notizia insomma di questa mattina è stato rigettato il ricorso e quindi continuano le misure cautelari che sono state previste. A questi compagni e a queste compagne va un particolare messaggio di solidarietà e d'affetto dai microfoni della radio. Chiudo dicendo e ricordando che oggi non ci sarà il giornale radio, insomma con Corrispondenza Operaia ritorneremo il lunedì prossimo, ma stiamo aspettando la telefonata di una compagna per farci spiegare una notizia che insomma è arrivata un po' confusa questa mattina, riguarda un centro d'accoglienza che sembra sia stato sgomberato con appunto a causa dell'inagibilità, della presunta inagibilità di questo centro, a cui poi è seguito uno sgombero sembra duro e diciamo in maniera forte. Noi non sappiamo bene i particolari di questa vicenda, stiamo aspettando questa telefonata per farci chiarire meglio